America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Francis ditched most of his prepared remarks and spoke passionately about the need for families in today's society. Beh, la grande messa finale con cui Papa Francesco si è congedato dagli Stati Uniti, da Filadelfia. Pensate, quasi 1 milione di persone sono arrivate alla Franklin Parkway, appunto, di Filadelfia, uno dei più grandi spazi pubblici degli Stati Uniti. Il Papa aveva visto anche dei prigionieri alla Curran From Hall del centro di correzione di Filadelfia, aveva presenziato al grande incontro sulla famiglia, sullo stato della famiglia. Ma è stata questa messa finale, devo dire, che ha dato un po' il senso di questo abbraccio, soprattutto pastorale. Papa che è passato per le Nazioni Unite, dove ieri sono cominciati i lavori preliminari con l'agenda per le donne, quella per gli obiettivi del millennio, che sono stati spostati a questo punto al 2030, obiettivi che riguardano l'ambiente, l'emancipazione delle classi più povere e così via, così via. Oggi ci sarà il discorso di Barack Obama, il vertice Obama-Putin, un vertice molto importante, e si è parlato all'ONU anche di economia. Ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che abbiamo incontrato ai margini di questi lavori. Sentiamo. La crescita italiana è nelle mani degli italiani. Quello che veramente sto cercando di dire tutti i giorni è che se pensiamo a dove eravamo un anno fa, con le riforme tutte ferme, e adesso le riforme si sono messe tutte in moto, vediamo che l'Italia la sua parte l'ha fatta. Stiamo stupendo il mondo con il fatto che abbiamo preso degli impegni e li stiamo realizzando nei tempi che ci eravamo dati. Ecco, un messaggio positivo quello di Matteo Renzi, un messaggio piuttosto forte che ha riportato poco dopo alla Clinton Global Initiative, il grande convegno organizzato dall'ex presidente Clinton, dove convergono politici, presidenti dei consigli, presidenti, uomini d'affari, esperti, economisti, e tutti parlano, un grande convegno parallelo alle riunioni dell'ONU, ma con, come dire, con un approccio molto pratico. Matteo Renzi è intervenuto alla Clinton Global Initiative con Bill Clinton e con George Soros, il grande finanziere americano. Insieme hanno parlato di Europa, è stato un dibattito vivace e con a tratti qualche differenza. Sentiamo. It's very difficult for me because during the meeting of European Council I'm usually the most polemic and provocator against the crisis of Europe and also the lack of vision for the future of Europe. But here I don't agree with Mr. Soros. Because I must underline one thing, first of all, Europe is a miracle. Ecco, in questa parte del dibattito Matteo Renzi dice: io sono convinto che l'Europa resti, l'Europa non è in fase di disintegrazione, come aveva detto poco prima George Soros, ma è un'Europa solida che deve puntare sui valori, sull'inclusione, e lì Renzi ha trovato anche un punto di differenza con Soros. Noi dobbiamo includere la Russia, dobbiamo far sì che la Russia sia parte della soluzione e non del problema. Soros aveva messo in guardia: la Russia è un pericolo, la Russia che invade l'Ucraina, la Russia che si espande in Siria. Soros è intervenuto di nuovo dicendo: no, è vero, la Russia la dobbiamo includere, ma non a livello di leadership, il problema è Putin. Invece la popolazione russa dovrebbe far parte di queste soluzioni multilaterali, anche quando si tratta di risolvere la questione siriana. Ecco, devo dire, Renzi ha parlato bene nel suo inglese, molti continuano a dire che il suo inglese è pessimo, invece in inglese riesce comunque a fare delle battute che coinvolgono il pubblico. Sentiamolo. After the crisis and after the picture of newspaper, the same leaders who told us in June this is your problem realize interview incredible. I open my doors, I open my house to refugees. The same leader who told me this is your business 2 months before. So my. It's not a joke, eh? It's a drama. Look me with preoccupation, I don't say the name. Ecco, qui si parlava di rifugiati, non è certo un tema leggero, però Renzi dava, come dire, il polso politico di quanto le differenze all'interno dell'Unione Europea ci fossero quando si trattava di parlare di rifugiati e quanto tutti volessero buttare il problema sulle spalle dell'Italia. Renzi dice: ecco, il Presidente del Consiglio, un mio collega, altri miei colleghi mi dicevano: questo dei rifugiati è un problema tuo, è un problema vostro. Dopodiché il problema è esploso, tutti si sono accorti che il problema è un problema europeo. Quando hanno cominciato a circolare le foto dei bambini, ecco, tutti tutti hanno cominciato a dire, dice Renzi, ah no, è un problema nostro, ce ne dobbiamo occupare tutti noi, ecco, e lo ha raccontato in modo talmente diretto che avete sentito quale è stata la reazione del pubblico. Ma queste giornate newyorkesi sono state intense sotto molti punti di vista. Per esempio, c'è stato un grande concerto a Central Park di cui cerco di darvi l'atmosfera. Sentiamo. Beh, dal congresso che ha parlato al Papa per darvi un'idea dell'ambiente, eccomi a Central Park, a New York, al Global Citizen Festival. In questo momento sta cantando Beyoncé, ma siamo in attesa di Matteo Renzi. Questa è l'atmosfera in cui ci sono tra l'altro 100.000 persone, 120.000 persone, devo dire la folla si perde a vista d'occhio. Ecco, ho fatto questa registrazione mentre ero a Central Park, mentre cantava Beyoncé. È stato un concerto molto bello, ma è stata anche un'occasione di incontro politico. È intervenuta la First Lady, Michelle Obama, è intervenuto Bono, sono intervenuti Bill Gates e Melinda Gates. Bill Gates ha poi presentato al pubblico il nostro premier Matteo Renzi, che era dietro le quinte, che chiacchierava con vari uomini d'affari, con altri politici, con ministri degli esteri, con celebrità, perché il problema di emancipare quei paesi che sono in grave difficoltà, quei paesi emergenti, è veramente la sfida del nostro tempo, e dunque occuparsene cercando delle idee concrete per lo sviluppo in quei paesi è fondamentale, perché è l'unico modo per poter tenere coloro che scappano, che fuggono, questi emigrati in fuga, questi rifugiati in fuga o da guerre o da difficoltà economiche. Ecco, la soluzione per tenerli a casa è quella di dargli lo sviluppo economico, e io credo che in questi lavori delle Nazioni Unite si parlerà soprattutto di questo. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.